Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E poi l'opportunità, quella che capita una sola volta nella vita. Rimanere all'estero presso il medesimo organismo internazionale, ma di smettere la divisa, che in fondo mi era sempre andata stretta. È dura, ma io sono preparatissimo. Giorno e notte studio e mi portano alla vittoria. La sorte mi aveva dato un'altra possibilità. Ciao, mi chiamo Alessandro, sono di Lodi, ho 35 anni. Non perdiamo tempo in chiacchiere vane e stragone. Facciamo qualcosa mentre l'occasione si presenta. Non succede tutti i giorni che qualcuno abbia bisogno di noi. A dire il vero, non è che abbia bisogno precisamente di noi. Chiunque altro andrebbe bene per lui, se non meglio. L'invocazione che abbiamo sentito è rivolta piuttosto all'intera umanità. Ma qui, in questo momento, l'umanità siamo noi, che ci piace oppure no. Approfittiamone, prima che sia troppo tardi. Rappresentiamo degnamente, una volta tanto, quella sporca razza in cui ci ha cacciati la sfortuna. Che ne dici, Estragone? È pur vero, d'altra parte, che, soppesando a braccia incrociate il pro e il contro, facciamo ugualmente onore alla nostra condizione. La tigre si precipita in aiuto dei suoi congeneri senza la minima riflessione, oppure scappa nel folto della foresta. Ma non è questo il punto. Che stiamo a fare qui? Ecco quello che dobbiamo chiederci. Abbiamo la fortuna di saperlo. Sì, in questa immensa confusione, una cosa sola è chiara. Noi aspettiamo che venga Godot. Buongiorno a tutti, in un giorno qualunque, in un giovedì di metà aprile, quello che vi ho appena letto è un pezzo di Samuel Beckett tratto da quel testo teatrale che in realtà forse pochi hanno visto ma di cui tutti conoscono il titolo, che si chiama Aspettando Godot. La storia è semplice, ci sono questi due tizi, poi si unisce un terzo, che aspettano che arrivi questo Godot, che non si sa chi è, che non si sa se arriverà, e infatti alla fine non arriva e non si sa chi è. Vabbè, ci sono mille metafore, mille spiegazioni di questo testo. Di fatto, in queste parole si racchiude un pochettino il senso della storia che ci è arrivata oggi, la storia di Alessandro. Non ci è arrivata oggi, la storia che raccontiamo oggi. E un pochettino anche si riassume il senso di questa giornata, forse, il senso di questo periodo, forse. Quando dice non succede tutti i giorni che qualcuno abbia bisogno di noi. Sta esattamente qua il senso di questa storia, il senso del racconto che ci ha mandato Alessandro, quando dice che la grande occasione è la sensazione che qualcuno abbia bisogno di noi e che qualcuno quindi dia un ordine alla nostra vita. 349-238-6666, qual è, se c'è, la grande occasione che state aspettando? Anche se in realtà la grande occasione non si aspetta spesso e volentieri, perché la grande occasione arriva senza che lo sappiamo, o meglio, senza che noi la cerchiamo. Cioè, quando arriva è inaspettata, nel senso che non la conosciamo, non sappiamo che quella lì è la grande occasione, al punto che ci stupisce. Se invece voi sapete che è lì per arrivare la grande occasione, 349-238-6666. Claudio scrive: la grande occasione che sto aspettando è quella di conoscere e abbracciare Charlize Theron, che, scusami Claudio, però conoscere lo posso capire, ma abbracciare, perché vuoi abbracciare Charlize Theron? Magari darle un bacio, però va bene anche questa. Susanna, che esploda il mio progetto commerciale, ma sono già sulla buona strada. Marco dice: io la buona occasione me la sono sempre creata da solo. Questa è una scuola di pensiero, crearsi le buone occasioni. La prossima idea la sto sviluppando adesso e ci credo di bestia, scrive Marco. E poi c'è un altro messaggio di Natasha che dice: io sto facendo doppio lavoro per aprire, contro il parere di tutti, la mia piccola libreria di paese. Tutti dicono di no. Io, quando ho visto il cartello affittasi nel locale, ho capito che mancava solo il mio sì. Aspetto questo momento da quando ero piccola. C'è solo un tipo di fallimento, secondo me, che è non provarci. Quella della libreria di paese effettivamente è una insomma, è un po' un azzardo, Natasha. Già in assoluto una libreria è un po' un azzardo, figurati in un paese. Però mi ricordo che qualche anno fa andai per parlare di una cosa in una libreria di un paese, che in realtà non è un paese, è una cittadina, che è in campagna, non mi viene mai il nome di questa cittadina, Santa Teresa, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria Capua Vetere, che credo non sia nemmeno in provincia di Napoli ma in provincia di Caserta, se non ricordo male, e andai in questa libreria. Questo lo dico per te, Natascia, perché magari ti dà un po' di forza se sei all'ascolto. Era l'unica libreria del paese che aprì, era il 2009 e aveva aperto pochi anni prima. Si chiama Spartaco la libreria, perché è una piccola casa editrice. Loro aprirono questa libreria in questo centro, dove le persone andavano a chiedere le penne, perché in quella zona esistevano solo cartolibrerie. Quella è una sorta di piccolo presidio, spero che loro ci siano ancora, immagino di sì, la casa editrice mi pare che esista ancora, ripeto, Spartaco. Loro insomma sono lì e ce l'hanno fatta. Natascia, se quella è la tua grande occasione, vattela a prendere. 349 238 6666. Vorrei leggere un altro pezzo di Aspettando Godot, però magari lo leggo dopo, perché questo è il momento della storia di Alessandro, che aspettava la grande occasione e l'occasione è arrivata. Mi chiamo Alessandro e ve lo dico subito, la mia non è una storia a lieto fine. Come molti, facevo un lavoro che non amavo, ma che, a rischio di contraddirmi, mi dava grandi soddisfazioni. Facevo il militare di professione, e sottolineo facevo, perché il militare non lo si dovrebbe fare, ma essere, e io non lo ero. D'altra parte mi occupavo di reti informatiche e telecomunicazioni, e molto poco di armi e combattimenti, e nel mio piccolo microcosmo mi sentivo un re. Ero il leader di quella tribù di professionisti per caso. Sono appassionato di informatica da sempre, da quando sono arrivati i primi computer a casa mia, da quando ero ragazzino, e poi ho cercato di seguire un po' gli studi approfondendo questa materia. Una carriera di successo, quindi, che mi ha portato a ricoprire ruoli interessanti anche all'estero, in un importantissimo quartier generale di una nota organizzazione internazionale. Ero arrivato all'apice del mio successo, pensavo. Oltre lì non sarei mai potuto andare. E poi l'opportunità, quella che capita una sola volta nella vita. Rimanere all'estero, presso il medesimo organismo internazionale, ma di smettere la divisa, che in fondo mi era sempre andata stretta. Decido di provarci e partecipo alla selezione. È dura, ma io sono preparatissimo. Giorno e notte di studio mi portano alla vittoria. Tocco il cielo con un dito. Potevo ancora una volta fare un passo avanti. Essere e avere di più. Insomma, la sorte mi aveva dato un'altra possibilità. Mi dicono di fare in fretta, perché hanno bisogno di me. Mi sono messo ad approfondire un qualcosa che era necessario in quel momento. Insomma, c'era un'occasione in ballo e volevo cogliere al volo. Quindi mi sono messo d'impegno, mi sono messo a studiare ed ero pronto, mi sentivo pronto e forse sarebbe stata la mia unica occasione. Che bella sensazione sentirsi utili, necessari. E con il cuore leggero, senza pensarci troppo, saluto tutti e mi congedo, in fretta e furia. Sono pronto a firmare il nuovo contratto per un posto prestigioso, a fare un lavoro stimolante, con uno stipendio da urlo. Sono passati 2 anni e sono ancora qui, aspettando di firmare un contratto che non è arrivato. Sono un punto rosso su una mappa che non conosco, in mezzo a una strada, in un paese straniero, a fare il cameriere. In a manner of speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand, but the way that I feel about you is beyond words. Alessandro l'aspetta da 2 anni, ma ci sono persone che aspettano la grande occasione da tutta la vita. È inutile negarlo. Nessuno si rassegna al fatto che la propria vita sia tutta qui, nel tragitto tra la scuola di nostro figlio e la palestra dove fa basket, tra l'ufficio e il supermercato, o nei giardinetti sotto casa, quando inizia la primavera. Che sia organizzare le vacanze estive e aspettare il Natale per rivedere i parenti. Che sia fare la spesa il sabato mattina e le pulizie il sabato pomeriggio. Portare il cane fuori di casa per rinchiuderlo in un recinto puzzolente con delle panchine dove sedersi e guardarlo mentre si rotola nella polvere. E poi cenare, sempre alle 8, 8 e mezza. e riuscire a leggere solo una pagina del libro quando si va a letto perché sei troppo stanco. Nessuno abdica al sogno di immaginarsi come Giovanni Soldini in mezzo all'oceano, o Montagnier mentre scopre la cura per una malattia, come Cristiano Ronaldo a Madrid o la Boldrini alle Nazioni Unite. Nessuno decide che non vuole vincere alla lotteria e diventare ricco sfondato, tanto da non doversi più preoccupare di niente, se non di scegliere a quale ente benefico fare una piccola donazione ogni giorno. Nessuno decide che tutto va bene così com'è e che il sogno di diventare psicologo era solo una sciocchezza, o che fare la ballerina era solo un'idea da adolescente senza cervello. Nessuno crede davvero che il senso più profondo della vita sia nei premi che puoi avere con i punti fidati. Ognuno di noi ha avuto un momento in cui la sua grande occasione sembrava lì, a portata di mano. Qualcosa tipo una lettera che arriva da Harvard e dentro la quale c'è la risposta alla tua domanda di ingresso. O la visita di un famoso critico d'arte alla minuscola galleria dove sei riuscito ad esporre il quadro di cui vai più fiero. O il provino per i pulcini del Milan. La società di consulenza che decidi di mettere in piedi dopo anni di pensieri perché alla fine ti sei convinto e speri che funzioni. O il notaio che apre il testamento della zia che non si sa a chi ha lasciato la sua grande casa di Castiglioncello. O magari, che so io, anche la troupe di Striscia la Notizia che arriva proprio nel tuo negozio con Capitan Ventosa in testa. Tutti pensiamo che prima o poi arriverà il giorno in cui qualcosa di magico accadrà. Qualsiasi cosa, ma qualcosa di imprevisto, di speciale, di memorabile. Qualcosa da poter raccontare, di cui vantarsi. Sì, qualcosa di importante e di bello. Di solito non succede, perché è vero, di solito queste cose non succedono. Se no, non sarebbero speciali. Però già sperarlo è bello. Non so se sarebbe stata la mia grande occasione, ad esempio, ma io mi ricordo bene quando per 3 giorni rimasi di fianco al telefono aspettando la chiamata di Gabriele Lavia, che mi aveva fatto un provino la settimana prima. C'era da impersonare Cassio in Otello di Shakespeare e io ero stato bravissimo, o almeno mi pareva. Non avevo nessuna esperienza all'epoca, ma ero molto fiducioso e lui era stato gentile, molto professionale. Avevo dato il numero di casa perché lui non si fidava dei cellulari all'epoca. E allora mi sono seduto sulla poltrona in sala a guardarlo, il telefono. Proprio come quando si è innamorati e si attende un segnale. Presero un altro, ovviamente, alla fine. E quando andai alla sera della prima a vedere lo spettacolo, vidi che lui era bravissimo. E che altro che grande occasione. Avrei fatto pena, probabilmente, se avessero scelto me. Perché non ero ancora pronto a fare l'attore vero, insomma, l'attore professionista. E allora decisi di andare a fare il servizio civile. Basta rimandare e basta scuola di teatro. Poi avrei pensato meglio a cosa fare. La mia grande occasione fu avere tempo per ragionarci su. Fu non bruciarmi su un palco. Mi aspettavo che mi sarebbe capitata la fama, e invece no. Ma è andata bene lo stesso. When I think of you in the city, the sight of you among the sights, get the sudden sinking feeling of a man about to fly. Never kept me up before, now I've been awake for days. I can't fight it anymore, I'm going through an awkward phase. Chiunque partecipi o abbia partecipato a questo programma sa quanto è difficile sfuggire a Margherita Hina. E invece Alessandro ce l'ha fatta. Non c'è la telefonata con Alessandro, siamo riusciti giusto a registrare gli insert vocali che avete sentito in apertura e durante il suo racconto. Non c'è perché credo abbia preferito non partecipare, quindi è esplosa in redazione la domanda. Forse alla fine l'hanno preso, quindi. Cioè, era 2 anni che era lì a aspettare con la penna in mano di firmare sto contratto e l'hanno preso esattamente nel periodo in cui abbiamo deciso di mandare in onda la storia. A lui ovviamente vanno tutti i possibili in bocca al lupo e a tutti quelli che hanno deciso di stare ad aspettare o di andare a prendersela la propria occasione. Arriva un messaggio che ha a che fare con lo sport e che, come al solito, è una grande metafora. Yuri, l'estremo sbaglia a calciare, quindi siamo già su un campo di rugby. L'estremo sbaglia a calciare. Io, un pilone che passa la maggior parte delle partite a toccare più terra che palloni, mi ritrovo con la palla in mano a 10 metri dalla meta. Risultato: prima meta e giro di birre offerte a tutta la squadra. Sembra quasi più importante il giro di birre che la prima meta, Yuri. 349-238-6666. Matteo, ho l'idea di un... Matteo sono io, cioè si sta rivolgendo a me, Antonio, ma come se parlasse a tutti. Ho l'idea di un libro in testa. aspetto. Cioè, scusate, sembra fosse l'idea di un libro sulla testa, invece ho in testa l'idea di un libro. Aspetto che si trasformi nel coraggio di scrivere. Antonio, guarda, secondo me queste robe qua davvero hanno più a che fare con l'artigianato. Non aspettare che arrivi il coraggio, mettiti lì e scrivitelo sto libro. Cioè scrivilo. Poi chi lo deve leggere lo leggerà, oppure non lo leggerà nessuno o diventerà un best seller. Questo veramente ha poco a che fare col fatto di scrivere oppure no. Mettiti lì e fallo. La grande occasione, attenzione, scrive Albert. Quando alza le mani, Rudy, vorrei che togliessi la base. Grazie. Attenzione, la grande occasione è quella di dichiarare. Non ce l'avevamo mai detti sta cosa. Possiamo riprovare, me la ridai un attimo la base. 349-238-6666. Attenzione, la grande occasione è quella di dichiarare il mio amore alla donna che ho sempre amato, alla prima donna che abbia baciato 28 anni fa, un solo bacio mai dimenticato, e alla fine del tuo programma avrò la fortuna di rivedere per pochi minuti. La coincidenza mi stupisce e il tema del programma di oggi mi dà fiducia. Albert, vale lo stesso discorso per il libro. Cioè, non è che devi aspettare il coraggio. A un certo punto le dai sto bacio, poi lei magari ti dà uno schiaffo. Uè, sto dispensando consigli oggi, eh? Che sembro quasi un prete. 349-238-6666. E aver perso l'occasione, l'ultimo amore con la maiuscola della propria vita, Jack da Milano. Ecco Jack, eravamo un po' carichi, ci hai buttato subito giù. Prima di leggere l'altro pezzo di Beckett, perché volevo leggervi un altro pezzo sempre di Aspettando Godot, che parla di quello, parla di aspettare un'occasione che non arriva mai. Più tardi voglio leggervi un'altra cosa, l'ho già pubblicata sul profilo Facebook, è arrivata una mail. Arrivano queste mail che spesso sono anonime e quindi ve lo dico, mi invento il nome, nel senso che la persona non vuole essere nominata e quindi mi invento il nome. In questo caso invece Adriano ha proprio scritto con il suo nome e gli ho chiesto di pubblicare sul profilo, di renderla pubblica, e lui mi ha dato il permesso. È una lettera che parla, è una lettera che sembrerebbe generazionale perché parla dei quarantenni. In realtà credo che sia una lettera che ha a che fare con tutte le età e con tutte le persone che si sentono di appartenere a un'epoca, probabilmente, in cui l'occasione non arriva più, sembra non arrivare più. Ve la leggo dopo. Adesso invece voglio leggervi quest'altro pezzo di Aspettando Godot. È sempre quello che parla. Aspetta che lo ribecco. Quello che parla è sempre Vladimiro, cioè perlomeno quello che parla di più. Aspettando Godot è una serie di dialoghi molto molto stretti. Ci sono alcuni monologhetti brevi e sono sempre quasi sempre di Vladimiro. Vladimiro a un certo punto si sveglia da una sorta di strano sonno e dice queste cose qui. Forse ho dormito mentre gli altri soffrivano. Sto forse dormendo in questo momento. Domani, quando mi sembrerà di svegliarmi, che cosa dirò di questa giornata? Che col mio amico Estragone in questo luogo, fino al calar della notte, ho aspettato Godot? Che Pozzo è passato col suo facchino e che ci ha parlato? Senza dubbio lo dirò. Ma in tutto questo, quanto ci sarà di vero? Estragone dorme. Lui non saprà niente. Parlerà dei calci che si è preso e io gli darò una carota. A cavallo di una tomba e di una nascita difficile, dal fondo della fossa, pensosamente il becchino maneggia i suoi ferri. Abbiamo il tempo di invecchiare. L'aria risuona delle nostre grida, ma l'abitudine è una grande sordina. Anche per me c'è un altro che mi sta a guardare pensando: dorme, non sa niente, lasciamolo dormire. No, non posso più andare avanti. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Non c'è la foto oggi, perché ovviamente il nostro Alessandro ha deciso di farci solo gli insert e quindi di non mandarci nessuna foto. Voi comunque andate sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, Voi siete qui, perché trovate i link alle canzoni che mandiamo, trovate un pezzo del testo e trovate tutti i podcast da scaricare. Attesa. Sostantivo femminile. Il tempo trascorso nell'aspettare. Anche lo stato d'animo di chi attende il realizzarsi di qualcosa conforme alle proprie speranze. La dolce attesa, incinta. Etimo derivato di attendere, data prima metà secolo XIII. Ogni giorno raccontiamo una storia a questo programma che si chiama Voi siete qui. È un programma molto semplice. Noi vi chiediamo di mettervi lì e buttarci giù in una pagina un episodio della vostra vita che vi sia realmente accaduto, che non sia un racconto, perché questo, perdonatemi, che non sia un racconto di fiction, perché questo non è un programma in cui si selezionano racconti per la fiction, non viene pubblicato nulla, non ci sono premi, semplicemente si mette insieme una specie di mappa che forse rappresenta un po' questo paese, forse rappresenta un po' questa epoca, e alla fine della quale noi avremo letto in due stagioni, avremo raccontato 215, credo attorno ai 430-450 racconti. Arrivano già le richieste a proposito del live che facciamo di solito alla fine di ogni anno qui alla sede di Radio 24, nella Sala Collina per l'esattezza, e ancora non sappiamo dirvi una data, in realtà ancora non sappiamo dirvi se tutto accadrà, immaginiamo di sì a breve, comunque di solito è verso fine giugno, perché la stagione per noi finisce lì. Ma torniamo ad oggi, perché oggi parliamo di grandi occasioni che arrivano oppure no, e la mail di Adriano ha creato un po' di scombussolamento soprattutto attorno ai quarantenni. Adesso ve la leggo questa mail, però prima volevo leggervi i commenti che sono arrivati, e sono persone che hanno tra i 40 e i 45 anni e si dividono in due. Quelli che dicono ha ragione Adriano, sono d'accordo con lui e mi sento anch'io orfano di una grande occasione, e quelli invece che dicono io mi sono pigliato in mano la mia vita e ho cominciato a fare delle cose. Non che Adriano non l'abbia fatta, adesso sentirete la sua storia, però sostanzialmente ve ne leggo alcune. Maddalena: io e mio marito, entrambi trentenni, abbiamo aperto un'attività con la speranza di creare un'occasione per i nostri figli, ma anche per aiutare altre a vivere in maniera più dignitosa. Stefano: sto scrivendo un romanzo e delle canzoni che spero di poter pubblicare un giorno o l'altro. E poi ancora Andrea: ho 46 anni, domani ne compio 47, auguri. 2 anni fa, in piena crisi, mi sono messo per conto mio, lasciando un lavoro abbastanza sicuro da dipendente. Già questo abbastanza sicuro non lo rende proprio così appetibile. Ad oggi sono felice di quella scelta, ho la mente più libera e cerco sempre nuove occasioni. Certo, la crisi morde, ma non dappertutto. In questo momento l'estero sta lavorando, insomma ci spiega che bisogna aggrapparsi un po' alla cordata estera per portare a casa qualcosa. Ah, mi sono anche separato, mi scrive. Nel frattempo vivo da solo e ho un bellissimo bambino di nome Matteo. Sono felice. Questo era un messaggio di Andrea, quindi insomma... c'è spazio per fare delle cose, c'è spazio per crearsi le proprie occasioni. Qualcuno mi scrive invece via SMS: per 10 anni ho pensato a un sito che volevo aprire, mi sveglio una mattina e lo vedo realizzato. Facebook. Questa suona veramente come quei film a metà tra film comici e film drammatici. Lui che si sveglia la mattina dopo che ha passato la notte a pensare a chissà cosa, devo fare un sito in cui ci sono le foto e ci si può scrivere, si possono trovare dei vecchi amici. Poi alla fine tanto verrà usato solo per il solito motivo, cioè per trovare delle ragazze con cui fare del sesso, possibilmente dal vivo e non online. Boom, si sveglia e l'ha trovato. Ecco, devo dire che ci sono altri due che hanno più o meno la tua stessa idea, credo, almeno altri due. Quei due sono stati risarciti da Zuckerberg. Tu, magari, boh, non so, se hai delle prove, fatti vivo, prova a parlargliene. Quello di milioni ne ha in giro. L'occasione della vita l'ho avuta. Ho conosciuto la donna della mia vita, ci siamo baciati, abbiamo fatto l'amore, non dirci proprio tutto però, ma la vera occasione sarà quando lo potrò abbracciare tutti i giorni. Alessandro da Brescia. Alessandro, dai che anche te ce la puoi fare. Quando è finita la mia esperienza nelle giovanili dell'Inter, pensavo di aver perso il treno della vita. Posso capire, forse no, ma poi sono arrivati altri in diversi ambiti. Ora ho capito che la vera occasione è mantenere ciò che hai di più caro. Luca, bisogna dire a Davide ciò, cioè lui che si occupa, no, non è Davide che qua, gli SMS sul computer si leggono, le E accentate si leggono A maiuscola accentata, è un delirio. A chi è che dobbiamo dire, Rudy? A Sandro, dopo lo dico direttamente a Sandro. È arrivato il momento di leggerla, questa benedetta mail che ci ha mandato Adriano. La trovate sul profilo Facebook del programma, che è Voi siete qui, Radio 24, paga di grandi occasioni e di generazioni. Ciao Matteo, mi chiamo Adriano, vivo in Umbria e sono un ex politico locale e faccio l'artigiano di professione. Ho 40 anni e ho aspettato la mia occasione a lungo. Poi, un giorno, ho smesso, per stanchezza. La mia occasione però non era solo la mia, era l'occasione per tutti quelli della mia età, e quell'occasione non è mai arrivata. 15 anni fa avevamo 25 anni e come tutti i ventenni eravamo convinti di avere il mondo in mano, Poi, attorno ai 30, abbiamo iniziato a capire che dovevamo muoverci se volevamo ottenere qualcosa. E ci ho provato. Ho aperto un mio laboratorio di falegnameria. Mi sono iscritto a un partito in cui avevo sempre creduto. Sono stato eletto e nominato consigliere comunale. Nel frattempo, la mia vita privata proseguiva in maniera serena e lineare. Ho avuto una figlia e il mio piccolo laboratorio si è ingrandito e ho assunto due persone. Attorno ai 35 anni ero convinto di avercela fatta. Non avevo colto nessuna occasione vera, perché mi sentivo di essermela creata con le mie mani, la mia occasione. Poi le cose hanno iniziato ad andare male, non solo per me, ma per tutti. I giornalisti non parlavano e non parlano d'altro che di crisi. E sotto questa parola, che ci copre come una nuvola nera, hanno cominciato a piovere le sciagure. Ho dovuto licenziare le persone che lavoravano per me. Non sono più stato in grado di pagare il mutuo e ho preso una casa in affitto. Mia figlia cresce, che è una meraviglia, e la vita continua ad avere i suoi normali alti e bassi. Ma dopo aver compiuto i miei 40 anni, ho capito chiaramente che avevo perso la mia occasione. Anzi, ho capito che tutta la mia generazione l'ha persa. E non so se la colpa sia di questo paese, della passata classe politica o di quella attuale, non lo so, davvero. Ma di fatto sono invecchiato e non me ne sono nemmeno accorto. Non so quale sia la grande occasione che sarebbe potuta arrivare e non so se arriverà, ma sono certo che io e quelli della mia età non potremo più prenderla, perché quell'occasione non sarà più per noi, ma per qualcuno che spero arrivi dopo di noi. Nonostante non sia rimasto mano in mano ad aspettarla, ma mi sia dato da fare, la mia occasione in sostanza non è arrivata. Ho abbandonato la politica con stizza, perché quell'esperienza locale mi ha fatto capire che non potevo fare nulla, che nessuno di noi poteva fare nulla. Non voglio essere disfattista, non è il momento giusto per farlo, ma auguro a quelli a cui l'occasione arriverà di essere capaci di riconoscerla e di afferrarla al volo. Grazie, ciao, Adriano. Stiamo aspettando l'uomo, lo stiamo aspettando tutti, compreso David Bowie e anche Helsinki, anche Mirko da Helsinki, che dice: avere tutto quello che uno si programma e sognare sempre i sogni degli altri. Questo sembra un verso di una canzone, siamo sicuri che non sia una roba tipo dei Rolling Stone? Una roba un po' amara rock dei Rolling Stone. Sul profilo Twitter del nostro programma, che è Voi Siete Qui R24, Antonio scrive: meno male che l'organizzazione era internazionale, fosse stata italiana poteva aspettare 10 anni, parlando di Alessandro che insomma sta aspettando e forse, speriamo per lui, sia stato chiamato. La mail che vi ho letto, quella di Adriano, ha creato, come vi dicevo, un paio di segmenti, no? Di frammentazioni, chi è d'accordo con lui e chi dice invece io mi sto tirando fuori. E poi c'è un messaggio di Kiki che vi leggo, che dice, che è un po' arrabbiato: mi rifiuto di considerarmi senza speranze solo perché ho 40 anni e di cedere il passo ai giovani, tra virgolette giovani, che non capisco il virgolettato, come se fossi decrepita ed intralcio a qualcuno. Questa società è già troppo giovanilistica. Questa è un'osservazione che è controcorrente, ma non è sbagliata, eh? Questa società è già troppo giovanilistica senza che mi ci metta anch'io a marciarmi contro. Per questa società eravamo già vecchi a 30 anni ed è così ancora oggi. Allora che ognuno lavori per sé, per una propria felicità, se ha idea di come ottenerla. A 40 anni non si è morti. Kiki, ma dove sei? Ma dove sei? Se sei ancora tra di noi, fatti di nuovo viva. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono ovviamente Tiziano Bonini, Fabio Cantadori, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. Ringrazio soprattutto Alessandro, gli auguro ogni bene ovunque lui sia. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Mi chiamo Pasquale, vivo a Berlino. La storia di domani è la mia e parla di un momento di felicità che mi ha regalato mio figlio Adriano. Questa è la mia storia e io sono qui.